giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Prima giornata con chiusura del traffico dal Goriziano sulla H4, la superstrada slovena interessata da lavori di manutenzione. Mattinata senza code né al Lisert né a Fernetti. Il gestore autostradale sloveno DARS ha precisato che il traffico dei mezzi pesanti sull'H4 in direzione Italia è solo un'opzione, non è obbligatorio. La valutazione a scuola, un percorso di verifica costante dei metodi e dei risultati di studio che sostituisce il voto, anche se questo rimane come discriminante finale. La sperimentazione in regione si allarga. Al Malignani di Udine l'anno scorso era stata una classe a fare questa esperienza, quest'anno saranno due. 660 aspiranti matricole, 460 posti sono i due numeri principali dei test d'ingresso alla laurea triennale nelle varie professioni sanitarie all'Università di Trieste. Un 20% dei posti resterà a disposizione degli esclusi a medicina. Stamattina le selezioni. Al via oggi a Pordenone, nell'ambito del progetto Polo Young, i lavori di riqualificazione dell'ex casa del Balilla, la palazzina, già sede della direzione dell'ex fiera, fine cantiere nella primavera 2026. Due cavalli in Carso. Parte da oggi in via sperimentale un servizio di vigilanza ambientale svolto dai carabinieri forestali a cavallo, appunto, in collaborazione col corpo forestale regionale. Assegnato alla storica e germanista di origine russa Irina Scerbakova il premio Friuli Storia. Il suo libro Le mani di mio padre, una storia di famiglia russa, si è aggiudicato il 55% dei voti della giuria di 360 lettori. La cerimonia di consegna il 25 ottobre a Udine. Buongiorno dalla testata giornalistica regionale, ai microfoni Maria Spezia e Antonio Cagliazza. La nuova viabilità provvisoria decisa per far fronte alla chiusura per lavori di una corsia della superstrada slovena H4, da oggi, secondo le previsioni, appesantirà i flussi di mezzi pesanti in uscita al casello dell'Isert e in uscita stato a Fernetti. Siamo andati a vedere come si presentava la situazione fino a poco fa e cosa si annuncia per i prossimi giorni. Flusso del traffico pesante invertito sulla superstrada slovena H4 da oggi non percorribile per chi arriva dal Goriziano. A Rasderto, sotto il Monte Nano, i mezzi pesanti sono invitati ad imboccare lo svincolo in direzione Vipacco. I camion viaggiano sulla superstrada su una sola corsia, il traffico leggero invece scorre sulla strada regionale parallela. Il nuovo regime del traffico, almeno al mattino, non ha prodotto code e rallentamenti sul tratto in direzione Capodistria della A1 slovena. Traffico dei scaglionato già a Postumia, poi molti in direzione sud non imboccano l'uscita per l'H4, altri prendono direttamente la strada regionale riservata al flusso veicolare. Minori disagi al confine verso l'Italia, coda ridotta a Fernetti, dove proseguono i lavori di rifacimento del manto stradale nei pressi del presidio di frontiera. Il gestore delle autostrade slovene DARS, da noi contattato, ha chiarito che l'immissione dei mezzi pesanti sull'H4 non è obbligatoria, è un'alternativa per i tir diretti in Italia. I problemi maggiori si sono registrati nel convogliare il traffico leggero sulla strada regionale da e per la valle del Vipacco. Da parte di Autostrade Alto Adriatico, già pronto il piano per eventuali code all'Isert, dove non si sono registrati problemi. Il lunedì preoccupa meno per il flusso in uscita, ma da previsioni nei prossimi giorni sono attesi aumenti di traffico fino al 30% e oltre il 50% tra giovedì e venerdì. Per ridurre i disagi verranno attivati pannelli a messaggio variabile, una terza corsia di telepedaggio e, in caso di code superiore ai 6 km, la deviazione dei mezzi leggeri sulla A34. Trieste, Andrei Marusic, TGR Friuli Venezia Giulia. Incidente sul lavoro questa mattina intorno alle 8 agli stabilimenti Fincantieri di Monfalcone. Vittima un monfalconese 45enne attivo per un'azienda in appalto nel settore delle verniciature industriali, che è stato investito a un piede da un muletto in retromarcia guidato da un collega. Molto grave la ferita riportata dall'uomo, che rischia la subamputazione del piede ma non è in pericolo di vita e che con prontezza è stato ricoverato all'ospedale triestino di Cattinara. Sul posto per i rilievi i carabinieri. Si allarga in regione la sperimentazione delle classi senza voto, quelle in cui cioè la valutazione è poggiata su un dialogo educativo costante fra docente e allievo in un percorso di miglioramento dell'apprendimento e del metodo di studio. Al Malignani di Udine diventano due le classi coinvolte. Descrittiva, migliorativa per gli studenti e per i docenti e la valutazione a scuola, un metro di giudizio sperimentato a Udine all'Istituto Malignani in una classe prima dell'indirizzo telecomunicazioni. Il voto è rimasto vincolante alla fine del primo e secondo quadrimestre, ma nel corso dell'anno i docenti hanno espresso valutazioni in varie dimensioni, linguaggio, scrittura, ragionamento, analisi del problema, in base alle diverse materie, unite a consigli sul miglioramento. Diminuisce l'ansia degli studenti, si introducono nuovi elementi di autoconoscenza o si corregge convinzioni errate su se stessi, aiuta a migliorare sia l'insegnamento che l'apprendimento. Valentina Grion, docente. La valutazione può diventare uno strumento di apprendimento ed anzi io sono del parere che se noi insegnassimo ai ragazzi a valutare, quindi li mettessimo nella condizione di fare valutazione anche fra di loro, tanto che io ho lavorato moltissimo sulla valutazione fra pari, allora daremo loro degli strumenti per autovalutarsi, per valutare il contesto e quindi per essere autonomi. In alcuni istituti italiani la sperimentazione è già iniziata da qualche anno. Vincenzo Arte, docente. Usare una valutazione descrittiva in cui si parla, si dialoga col ragazzo, gli si dice cosa sta facendo bene, cosa sta facendo male, quali sono i suoi punti di forza, dove può lavorare per migliorarsi, eccetera, serve tantissimo per l'apprendimento dei ragazzi. L'obiettivo è migliorare i processi di apprendimento degli studenti, fare in modo che imparino di più e meglio, incrementando la loro autonomia. Per questo al Malignani la sperimentazione andrà avanti. Udine, Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia. Le madri quasi sempre non lavorano, è un'affermazione decisamente pesante da quanto appreso in occasione di una scelta sulla chiusura di un doposcuola a Monfalcone, una dichiarazione che probabilmente serve a giustificare scelte amministrative in cui non entriamo, ma che come Commissione Pari Opportunità del Friuli Venezia Giulia sentiamo il dovere di commentare. Inizia così una nota della Presidente della Commissione, Dusi Marcolini, in merito al taglio del tempo pieno per alcune classi della scuola primaria Duca d'Aosta di Monfalcone. La conciliazione, il contrasto alla povertà educativa, le politiche per favorire l'emancipazione femminile sono temi centrali della nostra azione. Proprio la carenza di servizi e le insufficienti politiche di conciliazione impediscono la piena partecipazione, soprattutto delle donne, al mondo del lavoro e della vita sociale, ha scritto Marcolin, aggiungendo che il nostro monito è che anche le amministrazioni pubbliche mettano in campo tutti gli strumenti per combattere questi divari ed è importante che ogni istituzione faccia la sua parte con l'ampliamento e non la riduzione di servizi a favore della conciliazione. Mentre alle facoltà di medicina sono spariti i test d'ingresso e numero chiuso, il sistema resta valido per le lauree triennali nelle varie professioni sanitarie, dove un 20% dei posti resterà a disposizione degli esclusi a medicina. Stamattina alle selezioni siamo andati all'Università di Trieste. L'apertura delle buste alle 11, 100 minuti per rispondere a 60 quesiti a risposta multipla. Sono stati 606 i candidati che si sono presentati all'Università di Trieste per la prova di ammissione ai corsi di laurea triennali delle professioni sanitarie, 10 distribuiti nelle tre sedi. Fra tanti neodiplomati anche lavoratori in cerca di nuove opportunità occupazionali. 660 coloro che avevano presentato domanda, 79 in meno rispetto al 2024, ma in aumento se confrontati con il 2022. Per 460 posti programmati, dei quali 200 per infermieristica. Ma di mezzo ci sono le novità nell'accesso a medicina, fra le quali i posti riservati a chi non risulterà in posizione utile nella graduatoria di merito al termine del cosiddetto semestre filtro. Fino a 40 per infermieristica, 8 in assistenza sanitaria e 4 in tecniche della prevenzione. Quest'anno abbiamo avuto una lieve flessione delle domande, spiega Francesca Larese Filon, presidente della commissione d'esame, perché una parte degli studenti che non passeranno il semestre filtro poi hanno richiesto in seconda o in terza scelta di entrare nelle lauree sanitarie. Di fatto i numeri tengono perché ci aspettiamo un ingresso di quelli che non passeranno il semestre filtro. Quindi riteniamo di aver avuto un buon successo. Consideriamo che Trieste ha aperto anche igiene dentale a Pordenone e abbiamo comunque la nuova dietistica a Pordenone. Ampliamo l'offerta e contiamo di avere il numero di studenti per colmare tutti i posti disponibili. Trieste, Lara Zani, TGR Friuli Venezia Giulia. A Pordenone è nota come ex Casa del Balilla o ex GIL, facendo riferimento in entrambi i casi al passato fascista dell'edificio, che poi è diventato la palazzina della direzione della ex fiera. Da oggi la costruzione, che conserva anche un suo pregio architettonico, è sottoposta a lavori nell'ambito del progettato Polo Young. A partire da oggi i lavori di riqualificazione inseriti nel grande cantiere relativo al cosiddetto Polo Young a Pordenone interessano anche l'ex Casa del Balilla. La facciata dell'edificio anni 30 sarà ripulita e restaurata e la parte interna riqualificata in un intervento concordato con la soprintendenza. Per consentire lo svolgimento delle operazioni sono interdetti da stamani l'accesso e il parcheggio dell'area antistante fino alla fine del cantiere previsto da cronoprogramma a primavera 2026. Gli uffici tecnici comunali si sono interfacciati con la vicina scuola e con l'associazione che ha in gestione il palamarrone per individuare la soluzione più adatta a consentire l'accesso alle due strutture, ha spiegato l'assessora all'urbanistica Lidia Diomede, sia attraverso l'accesso pedonale esistente all'altezza dell'intersezione tra via Molinari e via San Quirino, sia attraverso un ingresso pedonale provvisorio che si sta realizzando in via Molinari all'altezza del panificio. Per quanto riguarda i disagi relativi ai parcheggi interdetti, l'amministrazione confida che il poco distante parcheggio di via San Quirino possa costituire un'alternativa. Il cantiere dell'ex fiera, del valore complessivo di oltre 22 milioni di euro, è funzionale alla realizzazione di un polo sportivo che, nelle parole del sindaco Alessandro Basso, consentirà di vivacizzare Pordenone, regalando ai giovani un ambiente sportivo rinnovato e moderno e un luogo di aggregazione, scambio, apprendimento educativo. Pordenone, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia. L'artigianato in Friuli Venezia Giulia mostra segnali di ripresa, soprattutto nei settori dell'edilizia e dei servizi alla persona, spinti dai fondi PNRR e dai bandi regionali. Lo dice Graziano Tilatti, presidente di Confartigianato FVG e di Confartigianato Udine, che parla di un sentiment moderatamente positivo per l'autunno, pur segnalando incertezze legate a dazi e rallentamento delle grandi imprese. A pesare anche la complessità del contesto economico, influenzato da dinamiche nazionali e internazionali sfavorevoli. A Trieste Lino Calcina evidenzia la tenuta delle imprese locali, ma segnala criticità su energia, credito e carenza di manodopera. A Pordenone Silvano Pascolo denuncia costi energetici sproporzionati e un'eccessiva incertezza nella pianificazione. A Gorizia Ariano Medeot guarda con fiducia al 2026 grazie alla ripresa dell'edilizia, alla nautica e alle aggregazioni nel settore meccanico. Resta urgente per tutti il tema della scarsità di figure professionali qualificate. A Pordenone si festeggia oggi la seconda patrona della città, la Madonna delle Grazie. Uffici pubblici chiusi per l'occasione e i fedeli si recheranno in pellegrinaggio al santuario della Beata Vergine delle Grazie, mentre sotto la loggia del municipio nel pomeriggio si svolgerà la tradizionale tombola. Gli organizzatori della storica società operaia di mutuo soccorso e istruzione SOMSI hanno incaricato il duo dei Papu, cioè Andrea Appi e Ramiro Besa, della conduzione dell'evento dalle 17 e dell'estrazione dei numeri che inizierà alle 18.30. Il montepremi prevede 300 euro per la quaterna, 500 euro alla cinquina, 1200 euro alla tombola e 400 euro per la seconda tombola. La musica è stata affidata al gruppo di 10 elementi dei Black Blues Brothers Tribute Show. E parliamo adesso di vigilanza ambientale a cavallo. Un progetto è partito oggi in via sperimentale sul Carso con due cavalli dei carabinieri forestali del servizio biodiversità di Belluno a supporto del servizio del Corpo Forestale Regionale. Due nobilissimi murgesi per monitorare i boschi e la landa carsica laddove i mezzi delle forze dell'ordine non possono arrivare. A svolgere l'attività di vigilanza ambientale saranno due unità dei carabinieri forestali del servizio biodiversità di Belluno che vanno a rafforzare il dispositivo di controllo del Corpo Forestale Regionale. Un progetto che parte in via sperimentale avrà una durata di 5 giorni nei quali si valuteranno le esigenze e le eventuali emergenze del territorio per poter poi estendere il servizio a tutta la regione. L'assessore regionale alla difesa dell'ambiente, Fabio Scoccimarro. Diciamo che per Belluno Centrale abbiamo anche Genova Cavalleria, già informato che ha delle scuderie ad hoc, però ovviamente il servizio dovrebbe essere in tutta la regione e ovviamente auspicabile sia esteso anche alle altre forze di controllo e dell'ordine, come per esempio il nucleo di controllo e Noava della regione, quindi che ovviamente sarà un nucleo nuovo ad hoc che dovrà essere formato. L'obiettivo è monitorare il Carso, ma anche educare la cittadinanza al rispetto dell'ambiente ed, operando nei boschi a ridosso del confine, anche rintracciare eventuale migrazione irregolare. Il comandante dei Carabinieri, Gianluca Migliozzi. La pattuglia pomontata, oltre alle attività classiche di prevenzione e repressione del controllo del territorio, può svolgere altre attività dal punto di vista addestrativo, sia delle altre forze di polizia, e anche nei confronti magari di qualche ragazzo che, vedendo la pattuglia o avvicinandosi a questa unità che non è usuale trovare per strada, può appassionarsi e quindi approfondire lo specifico settore. Trieste, Vaciuk, TGR, Friuli Venezia Giulia. Sono le 12.45, passiamo al meteo, il cielo è sereno su pianura e costa, da poco nuvolosa variabile in montagna. Queste le temperature registrate alle 11. A Trieste 23 gradi, il mare quasi calmo con temperatura di 25 gradi. A Gorizia 24 gradi e mezzo, Udine 23 gradi e 5 decimi, Pordenone 22 gradi e 5 decimi. In Aramontana Tolmezzo 21, Forni di sopra 20 gradi, Tarvisio e Sappada 18, Piancavallo 17 gradi e mezzo. In quota sul Monte Lussari e sul Monte Zoncolan 16 gradi e mezzo. Sulla costa Lignano 25 gradi, la temperatura del mare di 23 gradi e mezzo, e a Grado 24, la temperatura del mare di 24 gradi e mezzo. Ed ora un'occhiata alle previsioni. Oggi pomeriggio cielo sereno o poco nuvoloso per velature con venti a regime di brezza. Nel pomeriggio poi sarà più probabile una maggiore nuvolosità. Diamo un'occhiata anche a domani. Al mattino cielo da poco nuvoloso a variabile, in giornata aumento della nuvolosità con probabili piogge sparse e rovesci temporaleschi, specialmente sulla pianura e sulla fascia prealpina. Edizione numero 50 del pellegrinaggio a Castelmonte in occasione della festa della Natività di Maria. Per l'occasione l'arcivescovo di Udine, Monsignor Riccardo Lamba, ha inviato una lettera ai fedeli invitandoli a chiedere l'intercessione di Maria per la pace in tutte quelle regioni che sono duramente provate dall'insensatezza della violenza e della guerra. La partenza a piedi è fissata alle 14.30 dalla chiesa di Carraria, a Cividale del Friuli, dove ci sarà la benedizione dei pellegrini. Alle 16.30 l'arrivo al santuario, dove alle 17 il vescovo presiderà la Santa Messa. Al termine verrà iniziato solennemente al Ministero il nuovo vicario generale dell'arcidiocesi udinese, Monsignor Dino Bressan. La storia dell'Unione Sovietica riletta attraverso le vicissitudini familiari. Le mani di mio padre, una storia di famiglia russa, pubblicato da Mimesis, un'opera insieme storica, politica e autobiografica della storica e germanista Irina Scherbakova, ha vinto la 12ª edizione del Premio Nazionale di Storia Contemporanea Friuli Storia. Ad assegnare il premio è stata una giuria di 360 lettori, la più ampia in Italia per un premio di saggistica. Il volume di Irina Scherbakova ha ricevuto il 55% dei voti, prevalendo sugli altri due finalisti selezionati, Carlo Fumian con L'invisibile mercato mondiale del grano fra il XIX e il XX secolo, Donzelli, e Gustavo Corni con L'Italia occupata 1917-1918, Friuli e Veneto orientale da Caporetto a Vittorio Veneto, Gaspari 2024. Cofondatrice dell'associazione Russia Russa Memorial, che ha vinto nel 2022 il premio Nobel per la pace, Scherbakova riceverà il riconoscimento a Udine lunedì 25 ottobre. Al via il progetto PESTUM della Società Friulana di Archeologia, che vede coinvolti diversi istituti scolastici superiori suddivisi in sei gruppi. L'iniziativa prevede la visita di alcuni dei siti italiani più importanti, un contributo attivo alla salvaguardia dello straordinario patrimonio archeologico nazionale. I giovani verranno guidati a Pompei, PESTUM e Velia, fra Napoli e il Cilento, nel Salernitano, e sotto la supervisione di archeologi saranno coinvolti in operazioni di ripulitura, ripristino e manutenzione di porzioni del sito di PESTUM. Il primo gruppo in partenza è quello del liceo Percoto di Udine. All'archeologo Massimo Fumolo, organizzatore della spedizione, abbiamo chiesto quando partirà. Il progetto in realtà parte oggi, e questo pomeriggio arriveranno i ragazzi della Percotto che verranno ospitati nel camping Villaggio dei Pini e da domani mattina saremo operativi sul campo. In mattinata faremo la visita al sito archeologico di Pestum e nel pomeriggio cominceremo invece l'attività lavorativa vera e propria. Chi sono i giovani coinvolti nel primo turno? In questo primo turno avremo 47 studenti e 4 insegnanti. Nell'arco invece delle 6 settimane di permanenza si alterneranno circa 300 ragazzi provenienti da varie scuole della nostra regione e con una presenza anche da parte del liceo Parentuccelli di Sarzana. Come si accostano i giovani all'archeologia? Direi con molta curiosità. Noi forniamo ai ragazzi un approccio sia teorico che pratico. Per quanto riguarda la parte teorica, portiamo i nostri giovani a visitare 3 dei siti più importanti. Dal punto di vista invece pratico, facciamo un'attività di ripulitura e manutenzione di porzioni del sito archeologico di Pestum e questa attività loro la fanno veramente con grande entusiasmo. In più, da quest'anno, grazie alla collaborazione con la direzione del Parco Archeologico di Velia Pestum, permetteremo loro anche di cimentarsi in un'attività di lavaggio dei materiali provenienti dagli scavi che si stanno svolgendo mentre stiamo soggiornando a Pestum. Qual è il fascino che l'archeologia suscita nei giovani? La scoperta delle nostre radici, del nostro passato è sempre stato uno degli obiettivi dell'uomo, per cui credo che questo ci sia anche nei ragazzi di oggi. Unica tappa in regione per Alla scoperta di Morricone, nuovo spettacolo dell'Ensemble Symphony Orchestra diretta da Giacomo Loprieno, in cui è proposto un viaggio nella sconfinata produzione musicale del compositore romano, fra i successi che hanno reso grande il cinema e la musica italiana. Fra questi, colonne sonore di grandi titoli come Mission, che state ascoltando in sottofondo, La leggenda del pianista sull'oceano, C'era una volta il West, Nuovo Cinema Paradiso, C'era una volta in America, Per qualche dollaro in più, Gli intoccabili, solo per citarne alcuni. Tutto questo ad Azzano Decimo stasera in Piazza Libertà alle 21, l'apertura delle porte alle 20. Presentazione ufficiale Siamo lo Sport ieri sera della nuova squadra per il campionato 2025-2026 della Pallacanestro Trieste, che al Castello di San Giusto ha fatto conoscere il nuovo allenatore Israel Gonzalez, festeggiando nel contempo i 50 anni di attività. Il capitano Ludovico De Angeli si è fatto portavoce del team, rinnovando l'impegno che verrà profuso in ogni partita. Sul palco anche Michael Arcieri, general manager del club, in aggiunta a un video messaggio inviato dal presidente Paul Matiasic. Sono le 12:52 minuti 45 secondi. L'assistenza tecnica è stata curata per questa edizione, che termina qui, da Samuel Montalto e da Mauro Ciccarelli. Ha collaborato in redazione Valentina Veneruso. La nostra informazione torna in televisione col telegiornale in onda su Rai 3 alle 14 e poi alla radio col GR delle 15 su questa frequenza. Vi invitiamo anche a seguire gli aggiornamenti delle notizie sui profili social della nostra redazione e sul sito. Per raggiungerlo basta scrivere nella barra di internet Rai TGR FVG. Grazie a tutti voi per la cortese attenzione. Da Maria Spezia e da Antonio Cagliazza, buon pomeriggio e a risentirci. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.